Magica Doremi, melodie sinfonie. Magica Doremi, eufonia. Magica Doremi, sinfonie melodie. Magica Doremi, eufonia. Magica Doremi, melodie sinfonie. Magica Doremi, eufonia. Magica Doremi, sinfonie melodie. Magica Doremi, eufonia. La vita è una magia con una melodia che sogni già. Magica Doremi.